Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui insieme di nuovo, Roberta Giordano con voi, come al solito, con questa trasmissione in cui ogni sabato cerchiamo. Comincio a avere dei problemi di audio, ma non lo so se è per il problema delle stagioni. Comunque, dopo a Paolo Corleoni in parte tecnica, tutto chiaro, sì, sono le mie orecchie, c'è qualche problema. Comunque volevo dirvi, ogni volta cerco un tema per confermare effettivamente il titolo che ho scelto, e direi questa volta che mi viene in mente che ci sono delle iniziative lodevoli che sino ad adesso non c'erano state, magari potrebbero essere migliorate, potrebbe esserci, diciamo, un arricchimento, un approfondimento sulla questione. Però non so se vi è capitato di vedere in orari un po', diciamo, tenebrosi, ecco, potrebbe essere anche spostata in orari più diurni, questa pubblicità, una specie di pubblicità progresso del Ministero delle Pari Opportunità. Sapete che si è parlato tanto, appunto, di discriminazioni, degli attacchi alle persone omosessuali. C'è questo spot dove si vedono dei medici, dei chirurghi che stanno operando, donne e uomini che siano, oppure si vedono dei rappresentanti delle forze dell'ordine, con la domanda: gli chiedereste se sono di destra o di sinistra, se sono bianchi o neri, se sono eterosessuali o omosessuali? Ha importanza secondo voi? Ecco, questo credo che sia davvero un'iniziativa molto meritevole, però ecco, magari un po' più di evidenza, di visibilità, visto che dovrebbe essere pedagogica. Ecco, non ci sono più le mezze stagioni, nel senso che prima non c'era, adesso c'è, ma se possiamo dargli anche un po' più di visibilità, benvenga. Eccoci quindi di nuovo insieme anche questo sabato. Quali sono, secondo voi, quali sono state le notizie della settimana che più vi hanno colpito? Il numero verde è 800 24 00 24, il numero verde appunto per parlare in libertà, per ritornare insieme a sfogliare un po' le notizie della settimana. E naturalmente, signore e signori, io sto per presentarvi il mio opinionista estemporaneo di oggi. Bruno Contigiani. Buongiorno, eccomi qua. Ciao, Bruno, Roberta. È qui proprio fisicamente, è venuto a trovarmi. Bruno è un personaggio particolare perché, a parte appena pubblicato questo libro molto bello, Chi va piano, piccole alchimie per grandi sentimenti, in cui lui è un grande, come possiamo dire, sostenitore della lentezza, di ritmi più umani, no? più a misura di persona. Dovete sapere però che Bruno prima non era per niente lento, nel senso positivo, è stato capo ufficio stampa di IBM Italia, quindi grandi responsabilità, di Telecom Italia Corporate, di Telecom Progetto Italia. Poi a un certo punto nella sua vita ha deciso che non poteva essere più una vita sostenibile, la sua, a proposito di sostenibilità, ha fatto una scelta completamente diversa. Bruno, è vero che non l'hai fatta proprio a 35-40 anni, no? Questa scelta? No, l'ho fatta attorno ai 50 anni, e a un certo punto mi sono reso conto che correvo troppo. Per cui, niente, piano piano ho deciso di cambiare. Ho fatto quel cambiamento di pochi gradi nella mia vita, che poi mi stanno portando invece a un grande cambiamento. E quindi con grande soddisfazione, credo, che sì. Dice. Gli uomini, stavo dicendo prima con Bruno, difficilmente accettano il cambio. Sono più le donne, no? Flessibili, anche che nel corso della vita magari anche cambiano un po' le loro posizioni nei confronti della vita, delle cose, a volte anche dei pregiudizi, che riescono anche in tarda età a superare. A me è capitato spesso di conoscere donne di questo tipo. In genere gli uomini invece rimangono molto arroccati sulle loro posizioni, sui loro punti di vista, sui loro privilegi anche. E leggo giusto la seconda di copertina, poi andiamo sulle notizie della settimana, perché Bruno tra l'altro scrive non solo rallentare in genere nella vita, ma rallentare in amore. Come in tutti gli altri aspetti della nostra vita, non è un fine, rallentare è solo un mezzo, forse l'unico che abbiamo a disposizione per orientarci in questo mondo sempre più veloce e mutevole. Questo libro non è un manuale, Bruno non offre risposte e soluzioni, ci racconta e suggerisce spunti di riflessione con la consapevolezza di non essere un esempio per nessuno. Però, sì. Parli quindi anche della lentezza dell'amore in questo caso. Sì, della lentezza nell'amore, perché credo che anche riguardo all'amore siamo un po' schiavi e vittime di una forma di conformismo, che debba essere tutto una fiammata, il colpo di fulmine, che debba tutto in qualche modo esplodere dentro di noi. Questo è vero, se c'è è bene. Però non è sempre così, e certe volte non è detto che il colpo di fulmine porti poi a un qualche cosa che duri nel tempo. Quindi parli dell'amore anche che inizia piano piano a volte, di qualcosa sì, che non è così deflagrante. Poi di provare a iniziare piano piano, quando non si è sicuri, conoscere le persone, capire se siamo attratti semplicemente dalla bellezza di una persona o anche dalla sua personalità. Insomma, certe volte i cuori si cercano, però le personalità si respingono. E quindi bisogna avere un occhio più acuto tra cuori e personalità. Allora, adesso buttiamoci invece, Bruno Contigiani, visto che tu sei stato uomo di mondo e lo sei tuttora, adesso lo vedi da un altro punto di vista, la vita prima da super manager, adesso da uomo più filosofico, possiamo dire così. Tanti sono i fatti, anche questa settimana, veramente ce ne sembra, ne possiamo fare un'indigestione. Il numero verde, ricordo per le ascoltatrici e gli ascoltatori, è 800 24 00 24. Fra tutte queste notizie di questa settimana, cosa vi ha colpito? Se tu dovessi dirne una, Bruno, da titolo, e poi dopo riflettiamo dopo. Ma io credo di essere stato molto colpito da questa vicenda di ieri di Brenda. Della morte della transessuale. Devo dire, sono stato anche positivamente in questa vicenda molto tragica colpito dalle titolazioni di alcuni quotidiani che hanno usato il femminile. Sì, e io uso effettivamente il femminile. Molto delicato. Sì, ne ho parlato con Valeria Della Valle, la mia linguista della Sapienza di Roma, che c'è sempre verso la fine della trasmissione, alla quale propongo una parola che in qualche modo ha connotato questa settimana. E una volta le avevo chiesto appunto transessuale, cioè se bisognava usarla tra l'altro al maschile o al femminile, effettivamente. E credo gli stessi trans, le stesse trans, la preferiscono al femminile, non vedo perché non farlo, quindi no? Sì, l'ho trovato un gesto di rispetto. Certo, benvenga il rispetto. Benvenga anche, come sempre, un punto di vista così, extraterreno. Riflessioni da Marte. Osservare la Terra da quassù, da Marte, no? Ve lo dico spesso, è cosa assai stimolante, ma anche difficoltosa, poiché per la distanza interplanetaria a volte alcune cose risultano piuttosto nebulose, no? Poco chiare. Per esempio, com'è possibile che un uomo, in Italia, per aver rubato uno zaino su una spiaggia, si sia fatto 4 anni di carcere, 4, e si sia suicidato al colmo della disperazione in questi giorni, mentre stupratori e altri efferati delinquenti non si fanno spesso neanche un giorno di gattabuia? Com'è possibile? Ecco, questa è una cosa che quassù, su Marte, non riesce a trovare una logica spiegazione. Ma si sa, per niente qui su Marte si è marziani, quindi alieni alle cose terrene. Però per mostrare il rispetto delle logiche terrestri, e in particolare italiche, si potrebbe proporre di comminare 23 anni di reclusione a tutti i ladri di nani da giardino, senza attenuanti. Che ne dite? È una pena esemplare. E poi viene da chiedersi che ci avranno al posto della materia grigia certi esseri umani. È davvero duro da comprendere. Per esempio, quella donna, una giornalista, non so se avete sentito, invaghitasi follemente del mostro del Circeo, quello che insieme a 2 compagni di merende a fine anni 70 violentò e torturò per ore e ore a morte 2 povere ragazze, una in realtà si salvò ma solo perché pensavano che fosse morta, senza contare che il suddetto mostro del Circeo, alias Angelo Izzo, nostalgico di tali eccitanti performance del passato, ha fatto brutalmente fuori in tempi recenti un'altra donna e una ragazza. È mai possibile, viene veramente a domandarsi, che sulla piazza questa signora, obnubilata dalla passione, non poteva trovare niente di meglio di Angelo Izzo per prendersi una sbandata e desiderare di sposarlo quanto prima, giurando che in nome di un sentimento sublime dimostrerà la sua innocenza? Ma viene da pensare che a taluni l'effetto serra faccia decisamente più effetto che ad altri. E sarà pur vero che l'amore è cieco, ma qui più che la vista si è completamente persa la Trebisonda. In ogni caso, gli scienziati nel frattempo proseguono nella loro ricerca di vita intelligente nella vastità insondabile dell'universo. Sarà che oramai le riserve terrene di neuroni si sono quasi completamente esaurite. Quindi dicevamo, Bruno Contigiani, la cosa che più ti ha colpito è questo fatto di cronaca terribile, no? L'omicidio della transessuale Brenda a Roma, coinvolta nel caso Marrazzo. Dicevi, le titolazioni che ti hanno colpito al femminile, ed effettivamente giusto per rispetto dirlo così. E in particolare cosa hai pensato? Per esempio, quello che viene da pensare è, santi nomi, chissà che cosa c'è dietro, che intrighi, che, no? Che intrecci. Sì, è una cosa che spaventa, cioè al di là di quanto sia questa vicenda orribile proprio per come si sta sviluppando e come sta proseguendo, credo che un po' faccia paura un po' a tutti, perché ci si sente all'interno di un mistero. Tra l'altro viene immediatamente dopo quell'altra storia molto romana di questa ragazza che per 26 anni non si è saputo niente, quindi in pratica su Roma Emanuele Orlandi, sì, Emanuele Orlandi, i misteri d'Italia, sì, diventano misteri d'Italia e diventano anche un po' misteri di questa città. E oltretutto fa impressione la modalità, al di là di questo soffocamento, di questa persona che muore in questo modo, e poi il fatto che a un certo punto uno decida di lavare il computer nel lavandino, questo è veramente un po' stravagante, ecco, come modo. E se fosse un omicidio, come sembra sia, anche la stupidità di muoversi in questo modo. Quando ero in IBM, ad esempio, abbiamo recuperato un computer di Soldini che era stato in mare non so per quanti il famoso giorni, navigatore velista. E i dati sono stati recuperati dopo mesi. Questa è una buona notizia. A proposito di notizie, allora cerco di farvi proprio una sintesi, ecco, estrema, per buttarvi lì qualche spunto, se non vi viene in mente immediatamente una notizia, ma tra poco c'è Fabio da Torino al numero verde 800 24 00 24. Tentiamo allora questa sintesi estrema. Allora, la nuova influenza, no? Che è quello che a tanti spaventa, il virus H1N1 ha avuto i primi casi di mutazione, l'ha annunciato l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, però dice l'OMS che il vaccino rimane efficace, nessun allarme. Poi, come dicevamo con Bruno Contigiani, l'omicidio della transessuale Brenda coinvolta nel caso Marrazzo, tutti gli intrighi, i lati sempre più oscuri, quindi nuovi sviluppi che purtroppo in modo drammatico ha questa vicenda. La sentenza su Battisti, il Supremo Tribunale Federale Brasiliano, sapete che con 5 voti contro 4 ha dato parere favorevole al rimpatrio dell'ex terrorista Cesare Battisti, anche se adesso la decisione finale spetta al presidente brasiliano Lula, che prima sembrava favorevole, adesso è un po' incerto, insomma, diciamo è una cosa molto sospesa e molto controversa, vedremo un po' come andrà a finire. Le nomine all'Unione Europea, c'era per quanto riguarda, sapete che era da nominare il presidente dell'Unione Europea, e il ministro degli esteri sono le due cariche più importanti. Per quanto riguarda il ministro degli esteri, si era fatta la candidatura di D'Alema e sembrava molto vicina, insomma, all'esito finale, alla vittoria, e poi improvvisamente invece c'è stata questa svolta, molti dicono di basso profilo, da italiani sicuramente si può essere delusi. Direi però che la cosa estremamente positiva è che il ministro degli esteri è diventata una donna. Di recente le donne dell'Unione Europea si erano ribellate, le parlamentari avevano detto: adesso di tutte queste nomine fatte al maschile, di queste candidature, qualche donna ce la dovete mettere. Persino il ruolo di ministro degli esteri si chiama Mr. Pesk, quindi mister, le donne manco erano contemplate, diciamo, nell'idea che potessero essere candidate e nominate. Invece, per fortuna, al di là della delusione per D'Alema, questa britannica Catherine Ashton, insomma, adesso è ministra degli esteri per l'Unione Europea, la seconda carica più importante. Poi in Italia prosegue il confronto politico sulla giustizia, un confronto molto acceso, con anche Napolitano che interviene ogni tanto, il Presidente della Repubblica, ha detto che bisogna rispettare gli equilibri, i contrappesi, insomma, tra le varie istituzioni, tra i vari poteri. Per quanto riguarda la politica, il governo ha ottenuto questa settimana la fiducia alla Camera sul cosiddetto decreto Ronchi, che contiene tra l'altro anche una parziale liberalizzazione dei servizi pubblici locali, a partire dal settore dell'acqua, che tante polemiche sta creando. Saprete poi che a Napoli è stato arrestato il killer del famoso video che era stato diffuso dalla Procura di Napoli, e quindi questa sembra una buona notizia. Poi naturalmente ci sarà il processo, si vedrà. La multinazionale americana dell'alluminio Alcoa, che sembrava dovesse chiudere gli stabilimenti in Italia, 2000 posti a rischio, ci sia stata la rivolta degli operai, ieri sembra che siano, insomma, cominciate un po' le trattative. E poi c'è anche allarmante la notizia della Fiat, dell'amministratore delegato Marchionne, che dice: taglieremo delle fabbriche, non possiamo difendere tutti gli stabilimenti in Italia. Prosegue il processo di Perugia. Il PM, pubblico ministero, quindi la parte accusatoria, accusante, che dice Amanda Knox, la ragazza americana, ha covato odio per Meredith, la povera ragazza che è stata uccisa, la povera ragazza inglese, e quindi sicuramente era lei che voleva vendicarsi di Meredith per punirla, insomma, del fatto che fosse un po' più, come possiamo dire, un po' più conservatrice, che la criticasse nei suoi costumi, nel suo modo di fare. Comunque, il caso di Emanuela Orlandi, dopo 26 anni, spunta un indagato, come dicevamo con Bruno Contigiani, questo è veramente un fatto, un giallo che tiene sospesa l'Italia da, pensate, da un trentennio, chissà mai se si arriverà alla verità. Poi da Catanzaro arriva la notizia che il carabiniere Placanica, sapete quello che è stato poi scagionato per la morte di Carlo Giuliani, si è saputo che molestava e violentava, insomma abusava di una ragazzina, di una minore per diverso tempo, per 2-3 anni insomma. E adesso è indagato, in Russia deciso per la moratoria della pena di morte, che anche questa un'ottima notizia dall'estero, mentre non è andato tanto bene il vertice FAO per la fame nel mondo, mancavano i grandi leader, questo per dimostrare quanta importanza diano al problema. E poi molto velocemente prosegue anche il processo Calciopoli e c'è Zeman, l'allenatore boemo, che ha detto: Luciano Moggi mi ha rovinato la carriera, mi ha interdetto praticamente di l'allenamento di alcune squadre importanti. E poi anche una notizia che arriva dagli Stati Uniti, che può sembrare leggera, ma in realtà è molto significativa. La svolta di Oprah Winfrey, che sapete che è la regina dei talk show, che è una delle donne più potenti del mondo, nera tra l'altro, che ha dato la notizia che il suo show si fermerà nel 2011, pianti in America, pianto anche suo, però sembra che darà vita a un suo nuovo network. Allora, provate un po' a pensare che cosa in particolare vi ha colpito di più fra queste e altre notizie che avete in mente. Il numero verde per parlare insieme in libertà: 800 24 0024. Il mio opinionista estemporaneo oggi è Bruno Contigiani, che è stato un super manager dell'IBM e della Telecom, poi ha deciso, come sta succedendo ultimamente un po' più spesso, di cambiare vita. E hai fondato anche questa associazione per l'elogio della lentezza. Sì, no? L'arte del vivere con lentezza. Tu ci riesci? Sei arrivato qua in netto anticipo, quindi ho detto altro che lentezza, arriva veloce, scusa. Beh no, forse questa è premura, forse non andava tanto bene, premura. Un po' troppo in anticipo. E forse. Comunque a conferma che lui piano ci vuole andare, ha proprio scritto Chi va piano, pubblicato da Rizzoli, Piccole alchimie per grandi sentimenti. Invece adesso andiamo sulle grandi e piccole notizie di vostro interesse, quelle che vi hanno colpito di più. Per esempio sentirei Giulio da Pistoia. Buongiorno. Giulio, buongiorno. Buongiorno Roberta, a tutti quanti. Io, come ho anticipato il vostro collega, volevo sottolineare la vergogna in un momento così celebrativo per l'alta tecnologia che un foglio di carta abbia destinato il suicidio di una persona e l'omicidio di una donna davanti alla sua bambina, perché nei commissariati non c'era nessuno che l'ha letto. Giulio, ci precisi un po' di che casi si tratta. Il suicidio mi sembra che sia quello del quel signore che aveva rubato lo zaino. Che ha appena lei, poc'anzi lei ha citato nel... Era la Marziana, sì, era la Marziana, sì, che ne parlava. Sì. Sì, la Marziana, sì. La Marziana mi piace. L'omicidio di quello che ha ammazzato la moglie, ora un paio di giorni fa. Sì, ma ne sono 2-3 casi alla settimana, anche se non ne parliamo noi giornalisti, perché sennò bisognerebbe fare un bollettino di guerra, veramente. Ogni settimana, no? No, ma ce ne sono 2-3 casi, anche da dati Eurispes, Eures, eccetera. Io trovo vergognoso che in un clima così altamente tecnologico, internet, tutta questa celebrazione di questa tecnologia, succedano dei disastri del genere. Cioè, per carità, quello avrà rubato lo zainetto, avrà avuto la sua pena. Io non metto in discussione che ha rubato uno zainetto. Poteva farsi un po' di mesi, un anno se proprio, mi sembra che 4 però anni. Però voglio dire, insomma, non facevano prima a prendere un piccione viaggiatore, l'addestravano con l'obbligo di qualcuno che gli firmava la ricevuta, almeno un colpevole. Ah, Giulio, c'era. Qui manca un pezzo, cioè tu vuoi dire è arrivata in questi giorni la sentenza per scarcerarlo, per liberarlo, non è arrivata per tempo e lui, non sapendo che l'avrebbero liberato, esatto, dopo 4 anni non ce l'ha fatta più. Sabato e la domenica non c'era nessuno e nessuno l'ha letto, nessuno gli l'ha comunicato, cioè io lo trovo vergognoso, al di là del fatto. Hai ragione Giulio. Può comunque essere un delinquente o meno. A maggior ragione se il suo reato era quello, mi sembra che potesse sapere subito che poteva essere liberato. Se fosse arrivato appunto poco prima, quest'ora sarebbe vivo. Figuriamoci per qualcosa di ancora più lieve magari. Invece di un zainetto fosse stata una mela al supermercato, faccio un esempio, perché per la mela al supermercato si va in galera, per una strage invece si tranquillamente a piede libero a farti le vacanze proprie. Se fosse stata anche per una mela, uno si suicidava perché non sapeva che invece gli avevano dato gli arresti domiciliari o l'avevano scarcerato. Insomma, quattro anni per uno zaino sono molto pesanti. Io lo trovo vergognoso. Sì, sì, no, io non conosco nemmeno l'entità appropriata o meno della pena, intendiamoci. Non metto in discussione che non andava giudicato. No, andava giudicato, ma appunto, appena un po' diverso, probabilmente. Non so se è poi se è poco o è troppo, questo io non lo metto in discussione. Metto in discussione che è vergognoso un atteggiamento del genere. Non è possibile. Giulio, ti ringrazio. Tu stai guidando? Dove stai andando? Se non io posso fare un fatto tuo. Sto viaggiando su un camion. Infatti ho l'auricolare. Bravo. Ho l'auricolare. Sì, sono al lavoro perché lavoro per una ditta che ha incomodato dei trasporti per una catena alimentare. Mi raccomando, Giulio, so che dovrei arrivare in tempi determinati, però Bruno Contigiani fa l'elogio vai della lentezza. Giulio, vai mi raccomando. Sì, sì, no, ma io se non ci arrivo mi fermo. Bravo. Ti riposi. Grazie Giulio, buon lavoro a te. Giulio, e poi sentirei Mariella da Trieste. Ah, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, la voce Mariella. Perché sono molto raffreddata. Non si sente. No, non si sente. È una voce d'oltretomba. No. Comunque volevo dire che perché volevo chiedere Roberta, la televisione dà spazio a queste persone perché soltanto dicono che si è innamorata di questo personaggio e la televisione invita queste signore a fare uno show. È tutta una pubblicità, sta gente cerca. Mariella, tu stai parlando della giornalista che si dice innamorata di Angelo Izzo, Donatella Papi. Perché io trovo che la televisione ha anche la sua colpa, insomma, perché non è giusto invitare delle persone a fare uno show su questi argomenti che mi sembrano veramente assurdi, perché se uno si innamora di un tizio qualsiasi, non vedo perché che tutto il mondo intero debba sapere, insomma, attraverso la televisione, non ti sembra? Diciamo, Mariella, certamente che poi ogni testata fa le proprie scelte in libertà. In questo caso, sì, forse un po' spettacolarizzare la cosa aveva poco senso e forse hanno fatto un po' il gioco anche di lei, se mi permetto di dirlo, perché se si fosse appunto innamorata di Pinco Pallino non sarebbe così alla ribalta delle cronache. Non può interessare di meno, insomma, che una persona, una donna, un uomo possa innamorarsi di un'altra persona. Trovo che sia assurda, ridicola questa cosa. Succede tutti i giorni che la gente si innamora, no? No, in questo caso faceva notizia, però forse lei cercava proprio questo. A me viene da pensare, però, posso dirlo? Una cosa volevo dire. Ho l'impressione come che uno vive in un manicomio, sai? Perché in questi giorni io sto leggendo un libro, non so se si possa dire, un libro di Nuzzi, forse voi sapete a cosa mi riferisco. No, puoi dire il titolo tranquillamente, non è pornografico, no? A parte forse pornografico, no, non si legge quello che vuole. No, Vaticano S.P.A. Ah. Io dico la verità, io sono una cattolica, sono rimasta esterrefatta da quello che sto leggendo, veramente, non so più cosa pensare di queste cose. Allora mi rendo conto che questo paese è veramente singolare, su tutti gli aspetti, non c'è niente di chiaro, è tutto un groviglio di vipere, mi sembra di vedere, non lo so. Grazie Mariella. Vedrete che la cosa è veramente seria. Sicuramente un paese complesso. Grazie Mariella, buon pomeriggio a te. Bruno Contigiani, volevi intervenire su alcune di queste telefonate? Sì, no, voglio dire, è vero che è un paese complesso, però è anche un paese di tanta gente che sta cercando di cambiare a partire da se stessa, con degli amici, con gli altri, quindi che resta abbastanza indifferente e non resta colpita da questa fascia che è sempre più staccata dalla vita delle persone. E credo che siano in tanti, non lo sanno, e credo anche che tutto sommato possano essere una maggioranza che non è rappresentata nel paese, quindi in questo possiamo anche tenerci un po' su. Quindi sei ottimista su questo? Io ho fiducia. Ferdinando da Milano. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando. Senta, le volevo dire di Brenta. Di Brenda, io sono un ex investigatore. Sì. Se l'hanno ammazzata, numero uno perché loro approfittano di queste persone che sono abbastanza fragili. Sì. Numero due, il computer gli hanno detto di dire in giro di tenere l'acqua in bocca. E numero tre, il fuoco, perché intendevano purificare qualche cosa per me. Quindi comunque stai parlando di simbolismi? Sì, lei non sarà l'ultima, glielo dico io. E questo è probabile, credo che debbano pensare sicuramente a un sistema di protezione adesso per queste persone, sicuramente. Era prevedibile anche nei suoi confronti, dico nel mio piccolo. L'hanno lasciata cadere, pensavano che andava a finire tutto così. Però nello scandaletto. Lì se non tengono gli occhi aperti la cosa non finisce qui. Ti ringrazio, Ferdinando. Ciao, ciao. Grazie. C'è Fabio da Torino. Pronto, Fabio? Fabio, ci senti? Pronto, Fabio, ecco, sì. Eccomi qua. Sì. Volevo parlare di una cosa che mi ha lasciato con le lacrime agli occhi dalla rabbia e col fiato che mi manca. Accidenti. Di questa settimana? Sì, assolutamente. È una notizia vecchia, tra virgolette vecchia, però è uscita questa settimana, almeno l'ho saputa io. Il prestito ponte per l'Alitalia, 300 milioni, è stato fatto prendendo i soldi dai fondi per la ricerca, tra cui quelli raccolti da Telethon. Io sono un malato di sclerosi multipla, dovete dire come la può prendere una persona come me o per chi ha patologie più gravi. Guarda, ti dico in molta sincerità, Fabio, io non ne ho sentito parlare, quindi non mi sento neanche di dire nulla su questa cosa. Dove te l'ha detta qualcuno? L'hai letta da qualche parte? L'ho letta sul giornale Il Fatto Quotidiano, dopodiché sono andato a documentarmi da internet. C'è una storia di un bambino malato di una forma rarissima di distrofia, il cui padre ha lasciato varie dichiarazioni. Sulla base di queste dichiarazioni sono state fatte delle indagini, suppongo, e comunque è venuta fuori questa storia. E Il Fatto Quotidiano l'ha pubblicata in prima pagina. Cioè che una parte del prestito ponte per risollevare l'Italia venisse dai fondi raccolti? Se non tutto, io adesso non so la percentuale, la maggior parte, non so, comunque io so che il prestito ponte è stato fatto grazie ai fondi per la ricerca, tra cui quelli presi da Telethon. Allora, mi dovete dire come può sentirsi un cittadino che già è svantaggiato come me, tra cui, tra parentesi, io facendo riferimento al discorso che fate oggi, la vita la devo prendere per forza lentamente, sì, perché non ce la faccio a stare ai ritmi normali. Mi dovete dire come la posso prendere e quanti italiani lo sapevano, perché in TV, per esempio, vabbè, non è stata proferita parola di questo, a livello di giornali, a parte Il Fatto Quotidiano che ha pubblicato in prima pagina la notizia, c'è stato in presenza un articoletto piccolo di Repubblica, ma niente di che. Cioè, dovete dire come può sentirsi un cittadino che già è in una situazione di svantaggio. Sei stato chiarissimo, Fabio, la cosa, se fosse vera, ovviamente è molto grave. Quindi sono emerse delle notizie, una in particolare un po' controversa, che per il momento non mi sento di commentare proprio perché non conosco, di Fabio da Torino, però procediamo con le vostre riflessioni su qualsiasi, in libertà, come ha fatto anche Fabio, su qualsiasi notizia vi abbia colpito in questi giorni. Il numero verde è sempre 800 24 00 24 e c'è Marco da Modena. Salve, niente, io volevo fare un appunto sul fatto di Brenda e dei trans in generale. Ma se in Italia la prostituzione è proibita anche quella dei trans, chiaramente, no? Cioè, queste persone non è che dobbiamo metterle sotto protezione, ma secondo me bisogna o comunque spedirle al loro paese con i fogli di via, perché saranno sicuramente in regola, e cercare di eliminare, no? Che adesso lo Stato si deve anche accollare la protezione di queste persone che vivono nell'illecito. Marco, ma che c'entra? In questo caso sono dei testimoni, delle testimoni estremamente scomode, a rischio, come ha fatto fuori Brenda, probabilmente, in questa che era coinvolta nel caso Marrazzo, ma Marrazzo credo che sia soltanto la punta dell'iceberg, non perché sia sbagliato andare con una persona di un altro sesso, dello stesso sesso, di un sesso misto, ognuno fa un po' del proprio sesso quello che desidera, perché c'è di mezzo appunto probabilmente una rete, sfruttamento della prostituzione, consumo o spaccio anche di cocaina, di droga, ecco, è un po' più complesso di come era sembrato. È vero, però quindi cosa facciamo? Li facciamo ammazzare uno dopo l'altro, quelli coinvolti? Io sarei per la riapertura delle case, per la gestione di queste persone, dalle prostitute, togliere dalle strade, metterle, anche i trans, per chi vuole andare, però non si può fare delle vittime, persone che vivono nell'illegalità, tirando cocaina, spacciando non loro ma chi li tiene il loro rag e spacciare. Poi alla fine i poverini sono quelli che vanno e così, cioè, no, dico, cioè, c'è una società civile che lo rendiamo civili anche loro, le regolarizziamo, apriamo delle case chiuse in cui i signori Marazzo, se voglio, vanno direttamente senza dover nascondersi o avere i propri vizi, insomma, questo è un discorso, perché io non li vedo tanto poverini, gente che piglia dei 4-5 mila euro a prestazione, cioè non sono tanto poverini, poi che vivano in una sorta di racket, c'è sicuramente anche dietro sfruttamento. È anche vero, scusami Marco, che molti di loro, poi altri lo faranno per scelta, come una minoranza di donne in Italia, perché ormai c'è la tratta, sono schiave, sono violentate, le ricattano con i figli, i genitori nei loro paesi, quindi è una situazione tremenda. Questa sì andrebbe risolta, ma non certamente credo mettendo le case, buttandole lì dentro nello spazio chiuso. Capisco che è un problema di difficile risoluzione, ma va affrontato. Io che spesso esco di notte dalla redazione, vedo sui viali di Milano delle ragazzine e mi dico, come le vedo io, ma passando le macchine delle forze dell'ordine, ma non si avvicinano a chiedere se hanno bisogno, cosa fanno lì, che cosa possono fare per loro. Ecco, insomma, è una questione molto, molto complessa. Marco, ci sei ancora? Sì. Il trans è un'altra generazione. Intanto sono qui da anni e sono più. Io non so poi se c'è questo racket. Ma di alcuni sì, ma alcuni di loro, per esempio, lo fanno effettivamente perché in Brasile vengono allevati, sì, per venire a fare queste. Cioè, in Brasile ce ne sono meno che qui in Europa. Sì, ho parlato con qualcuno di loro e mi dicevano che lavoro vuoi che faccia? Pensi che vestito o in queste condizioni, così come sono fisicamente, qualcuno mi prenda a fare qualche altro lavoro? È vero anche questo. Ma non sono trans originali, mi scusi. Originali, sono gente trasformata. Lo sa che le regine del carnevale in Brasile sono dei trans? Cioè, tra le migliori. Che differenza c'è donne tra quelli originali e quelli che vengono? Questi sono trasformati solo perché c'è una moda anche per la prostituzione di questo. No, questo anche settore, trasformati i seni, quindi, ce le hanno, delle operazioni le hanno fatte. Ma non sono tutti. Cioè, scusi, andiamo a esaminare i cromosomi. Qualcuno avrà anche i cromosomi sbagliati, ma secondo me sono dei rifatti truccati. Per fare il mestiere, perché con quei soldi lì, dico, molte persone si butterebbero Sì, ma non credo che qualcuno solo per guadagnare si trasformi senza desiderare di voler essere altro. Certo, ecco, ma un minimo di deviazione ci sarà indubbiamente. Ma però, deviazione è un desiderio. Però, quello che voglio dire io, cosa facciamo? Facciamo una scorta anche ai trans, allora scortiamo tutti in Italia. In questo caso però... Io mi sento di prendere e metterli in una casa chiusa, gestirli, fare una legge per la prostituzione, perché è inutile tenerla per la strada. Sì, questa è una vecchia diatriba, Marco, e ci si arriverà a ragionarci nuovamente, non lo so. Ti ringrazio. Nel frattempo c'è Bruno Contigiani che voleva intervenire su questa cosa. Bruno. No, io semplicemente credo che anche Roberta, abbiamo voluto semplicemente sottolineare il fatto che qui si tratta di un testimone, una persona che ha un ruolo importante in questa vicenda di Marrazzo e che a questo punto forse si poteva pensare a proteggerla e che comunque era a rischio. Quindi da parte mia non c'era la cosa di dire proteggiamo tutta la categoria, c'era il fatto che ero rimasto molto colpito dal fatto che questa persona, che comunque sapeva tante cose, in qualche modo sia morta assieme anche a un altro che poco tempo fa, se non mi sbaglio, uno spacciatore a un certo punto si è preso una dose, un overdose, e era anche lui implicato in questa vicenda. Sì, quindi Gianguarino Cafasso. Sentiamo Chiara da Milano, il numero verde 800 24 0024. Ciao Roberta. Ciao Chiara, che bella remoscia. Ah, grazie, è un piacere parlare con te, davvero. È reciproco come sempre, no? Altrimenti noi che stiamo a fare qua se non ci sono... Così, sulla fiducia, per quanto sulla riguarda. Fiducia. Due belle voci però. Grazie Bruno. Chiara, quindi su cosa vuoi tornare, riflettere delle cose che si sono succedute in questa settimana? Sì, esordisco col dire che dopo quello che abbiamo sentito da Fabio di Torino, tutto quanto diventa, come dire, ridicolo, tutto ciò di cui c'è da parlare dopo una notizia come quella che di cui lui ha parlato e che quasi non ha avuto riscontro sui giornali, tutto il resto sembra sparire. A proposito di Telethon, beh, insomma, comunque nulla è ridicolo che abbia importanza per le persone, per la società. La tua, al di là di questa considerazione, quindi, che notizia è, Chiara? Mi è venuta voglia di telefonare dopo averti sentito dire che sei orgogliosa del fatto che sia stata eletta una donna quale ministro, quale Mr. Pesk, che invece è una madama. Sì, punto. Sì, sì, nel senso, ci dispiace come italiani per D'Alema, però sembrava che nessuna donna potesse avere diritto ad aspirare a queste cariche, e alla fine è uscito il coniglio dal cilindro, la coniglia anzi, da questa britannica che tra l'altro credo finora sia stata commissaria del commercio estero o qualcosa del genere per l'Unione Europea, e quindi abbiamo una ministra, la seconda carica più importante dell'Unione Europea, ministra degli esteri. Questo sì. Non so, io quando si tratta di parlare di donne in politica mi fa un po' specie sentire una persona che è felice che venga eletta una donna a prescindere dal fatto che abbia conoscenze in materia, solo perché è donna. È come dire che gli uomini dovrebbero essere felici che ci siano uomini al potere indipendentemente dalle loro capacità. Il problema, Chiara, è che ci sono solo uomini al potere, diciamo il 90%, in Italia come nel resto. Allora, se si comincia a dare spazio, le donne non possono essere 100.000 volte più brave degli uomini per poter aspirare una volta a una carica. Io direi che... Però anziché mettere una persona che a quanto pare è stata eletta, così come l'altra nomina che è stata fatta, puramente semplicemente per il fatto che così non è una personalità molto forte che si possa imporre come poteva essere un D'Alema, e di conseguenza è... Io le darei un po' di tempo, però, che dici, Chiara? Quello sì, ma a questo punto l'Italia, anziché D'Alema, perché non ha candidato la Bonino? Avevamo una donna splendida. Sì. Sono d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo su questo, nel senso potevamo effettivamente di donne brave, valide, però proprio per quello che ti dicevo prima, c'è il pregiudizio che comunque si pensa a un uomo, non si pensa a una donna, quindi il fatto che alla fine, all'ultimo momento sia venuta fuori una donna, a me personalmente fa piacere, non farà piacere a tutti. No, ma anche a me fa piacere, ribadisco, spero soltanto non sia stata scelta semplicemente perché avrà poco da questionare rispetto ad altre cariche che vorrà. Mi auguro di no, mi auguro di no, Chiara. Ce lo possiamo augurare questo. Infatti. Ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Grazie, Chiara. Tu vuoi dire qualcosa, Bruno? No, voglio semplicemente dire che comunque è una persona che in qualche modo mi sembra che si sia occupata già di temi di carattere internazionale. È vero, commercio estero, però... proprio delle persone totalmente impreparate non saranno, e poi comunque non è tanto vera sta cosa, perché la Merkel mi sembra che un po' di potere ce l'abbia nel suo paese. Bravo, hai citato l'unica donna, puoi citare no, ci sono anche i Nobel quest'anno, no, e qualche Nobel, sì, la Ostrom, sì. È chiaro, altri, che in mezzo a un tappeto nero di mosche nere, quando c'è quella bianca la noti di più, no? Sì, anche se una, anche se sono quattro in mezzo. Però dico, un po' dovreste essere anche gioire di queste cose. Infatti ho gioito, hai visto, per la ministra degli esteri europea. C'è Sergio da Milano. Pronto, ciao Roberta, complimenti per la trasmissione. Grazie Sergio. Allora, due osservazioni veloci, ma sarà una cosa curiosa questa baronessa, sicuramente avrà del carattere. Io non ero molto d'accordo con D'Alema perché è sempre un personaggio un po' flemmatico, lento, un po' non sembra. So, retro. Ci vuole qualcosa di nuovo, qualcosa di più spumeggiante, non lo so, questo è il mio commento a caldo. Sì. Volevo fare un'osservazione rispetto a purtroppo al suicidio di quel ragazzo riguardo allo zaino, si parla dello zaino. Io ho sentito motivare comunque questo tipo di informazione che, ok, lo zaino, ma questo ragazzo era già soggetto a una restrizione per altri reati, non poteva lasciare la città, ha lasciato la sua città, è incappato in questo furto, per cui lui è andato in galera per 4 anni per una sommatoria di reati. Sì, per cui, piccoli reati, dire, sì, perché, ecco, no, no, ma, uno è stato in galera 4 anni per il furto di uno zaino, fa ridere anche mio figlio di 10 anni che dice, ma come, se io rubo l'astuccio vado in galera 10 anni? No, questo alla fine per uno zaino ha scontato tutte le altre pene. Questa è la verità. Sì, non erano delle pene così. Io, per esempio, c'è esperienza in Italia, c'è una ricerca recente, ho visto che degli stupratori finisce in carcere condannato l'1%, mi sembra. Ti rendi conto che su 101 è un reato gravissimo che devasta, certo, la vita di una donna per tutta se la vita. Però io non devo lasciare la mia città perché ho compiuto dei reati. No, su questo non siamo d'accordo, non è che nessuno abbia detto che rubo uno zaino e mi beccano, ne sconto 5 al posto di uno, ma è per questo che ho fatto 4 anni, non per lo zaino, per una sommatoria di reati, no? Sì. E poi il suicidio purtroppo è anche un po' una scelta personale di c'è l'imprenditore che fallisce, che si butta dal ponte, quello che si innamora e gli va storta e si ammazza, e quello che in galera non ci sopporta e prende una scelta, sono scelte estreme. Se ne faceva una questione di proporzioni, Sergio, certo, non certamente sì, di impunità, non era, che non spetta a nessuno. Non è 4 anni per uno zaino perché fa impressione, se no. No, qui dall'agenzia ANSA dice, lo riprendo, per esempio, era stato condannato nel capoluogo romagnolo nell'agosto 2008 per il furto di uno zaino in spiaggia. Gli erano stati comminati 4 anni e 5 mesi di pena per una serie di aggravanti, fra cui la recidiva specifica, cioè quella di furti, di borseggiamenti, la dichiarazione di delinquente abituale e il fatto che si trovasse in Romagna in violazione, come dicevi tu. Non è che si sta parlando di veri reati contro la persona, ma non stiamo dicendo che dovesse certo. godere di impunità, però a volte è veramente sproporzionato rispetto a tanti casi di delinquenti efferati, abituali, eccetera, certo. che o per prescrizione o per altre questioni finiscono fuori, si va avanti neanche gli arresti domiciliari. Ultimamente c'era stato anche coi casi di Roma e altri, no? Il dibattito sulla violenza sessuale, mi sembra, si parlava di processi per direttissime, non mi sembra, per ora non vorrei dire delle cose sbagliate, non mi sembra che per il momento si stiano applicando queste cose con un reato così, così pesante. Era solo ogni tanto per sottolineare che insomma la legge è davvero uguale per tutti. Ecco, questo semplicemente, Sergio. Allora, prima di sentire che giornate ci aspettano anche da un punto di vista meteorologico, io tornerei invece sui fatti della settimana con Marco da Verona. Sì, pronto? Sì, Marco, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a te. Senti, io avevo provato a fare il numero più che altro per un motivo ben preciso. Riguardava la decisione di qualche giorno fa da parte del nostro governo di privatizzare l'acqua sì. e di privatizzare i servizi che in teoria non dovrebbero essere privatizzati. Però ascoltando la trasmissione e ricollegandomi al fatto che con la mia ragazza stavamo facendo più o meno la stessa discussione, e io vorrei capire cosa sta succedendo a questo mondo, perché l'ascoltatore che mi ha preceduto si è ha tenuto a precisare che un ragazzo si è ucciso in carcere solo ed esclusivamente perché aveva avuto 4 anni, però si è sorvolato sul fatto che una persona si è suicidata in carcere per un motivo che non avrebbe dovuto suicidarsi. Cioè, in teoria gli dovrebbe essere già stata notificata la sua scarcerazione, in realtà la scarcerazione non gli è stata notificata e questo per i motivi del tutto personali ha deciso di suicidarsi. L'ascoltatore precedente a lui invece si arrampicava sugli specchi di una presunta moralità o bacchettonismo, chiamiamolo come vogliamo, sul fatto che i gay non dovrebbero esserci, i viados non ci dovrebbero essere, le prostitute nemmeno, perché risulta essere un reato. In realtà la prostituzione in Italia non è reato, a quanto mi risulti. È un reato favorire la prostituzione o far sì che la prostituzione abbia questa connotazione di racket e di sfruttamento, dici, in questo senso. Esatto. Il fatto che una persona decida di prostituirsi per sbarcare il lunario dovrebbe rientrare nella libertà, nella sfera del tutto personale, nella libertà della persona. Giusto sarebbe, come ha detto l'ascoltatore, di riaprire le case chiuse dalla signora Merlima. Questo è un procedimento, un passo che dovrebbe fare il nostro governo quanto prima. Però anche lì si è tenuto il fatto che era un viados e che tutto sommato, anche se è morto, non è questo problema. Cioè, se avessero ucciso, facciamole corna per carità, ma se avessero ucciso un parroco o un prete sarebbe stata tutta un'altra cosa. Cioè, adesso staremo qui a vedere chi ha osato uccidere un parroco o un prete. Certo, tutti hanno lo stesso diritto di vivere, la stessa dignità, ci mancherebbe, Marco. Allora, continuate la discussione con la tua ragazza. Mi fa piacere che nelle coppie, anche se credo la maggior parte, insomma, anche discorsi impegnativi spesso e volentieri, magari traendo spunto da una trasmissione. Ti ringrazio, ma molto sinteticamente adesso vogliamo sapere che tempo ci aspetta. Carissimo colonnello Giuliacci, nei 23 secondi che ci attendono, che cosa? Ciao Mario. Grazie Roberta, rapidissimo, un tempo da fotocopia e incolla, nel senso simile a quello degli ultimi 3 giorni, ossia Italia divisa in due, nuvole questa volta in senso verticale, dal nord al sud, nuvole fastidiose e tediose che ci rendono attapirati, diciamo, questo cielo grigio, sì. Sul nord Italia, sulla regione adriatica, cielo sereno sulle regioni tirreniche e sulle isole, bene, diciamo questo cliché è quello ancora che ci sarà per oggi. Per domani cambierà qualcosa, nel senso che peggiora un pochino, peggiora sul nord Italia perché arrivano nuvole nere vere dall'Atlantico, porteranno qualche pioggia qua e là sulla Liguria, Lombardia, a fine giornata anche sulle Venezie, insisteranno le nuvole ancora, questa cappa di nuvole sulle regioni adriatiche, anzi si accentueranno anche le nuvole sulle regioni tirreniche, quindi anche domani una giornata grigia, insomma una giornata malinconica, speriamo in tempi migliori. E proprio in un secondo settimana, settimana connotata in una parola, la prossima settimana? Ma la prossima settimana senz'altro sarà meno melanconica di questa, nel senso ci saranno meno nuvole e direi un po' più mutevole, giornate anche con il sole, qualche giornata anche con le nuvole, ma non una settimana intera nuvole come è stato per il nord Italia e le regioni adriatiche. Un po' più alternato, quindi ce lo aspettiamo per la prossima settimana. Colonnello, lo prometto. Una promessa. Speriamo non da marinaio, grazie infinite e comunque un fine settimana solare per te. Grazie. Ciao, colonnello. A te e agli ascoltatori. Buona giornata. Ciao colonnello, io direi di dare spazio adesso a Paolo da Vercelli e chiedo scusa a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono in attesa da un po', numero verde 800240024, subito a te la parola, Paolo. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno a te Paolo. Buongiorno, a me ha colpito una non notizia che mi ha fatto riflettere su come sono i meccanismi dell'informazione televisiva, giornalistica in Italia. Avrete sentito parlare di operazione White Christmas in un paese vicino Brescia. Di Brescia, esatto. Io ho un pochino approfondito la situazione anche perché per motivi familiari o delle persone che vivono lì sono nell'amministrazione comunale. Premetto tra l'altro che non ho nessuna simpatia per la Lega, ad esempio, quindi anzi trovo deliranti certe affermazioni che mi capita di sentire. Però vogliamo ricordare che operazione è questo Bianco Natale? Cioè non di... è un'operazione, me lo dica lei che cos'è. Allora, perché non c'è stato nulla di tutto questo. Quello che è andato sui giornali è assolutamente falso. C'è un articolo sul Corriere che è titolato una non notizia. Sì, nel senso che dicevano rispediamo a casa i cittadini clandestini extracomunitari, questo sembra che dovesse essere questa operazione White Christmas, se non c'è stata direi tanto meglio Paolo, e devi perdonarmi perché abbiamo pochissimi minuti, forse 61 secondi da dedicare a Valeria Della Valle. Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, cara Valeria, alla quale chiedo, riferendomi a una notizia di questa settimana, in realtà insomma va avanti da mesi, quella dell'estradizione di Cesare Battisti, ma staccandosi dal Battisti, invece concentriamoci sul termine estradizione, Valeria. Estradizione, sì, non potrò accogliere l'invito dell'ospite, non potrò andare lenta, andrò velocissima. Per colpa mia, come sempre. Sì, come sempre, è una bella sfida, insomma, che cos'è l'estradizione, cosa significa la parola, più o meno lo sappiamo tutti, no? Una procedura regolata da convenzioni internazionali per la quale alcuno Stato consegna a un altro Stato una persona non solo imputata ma già una persona condannata per un reato che ha commesso, per il quale deve essere giudicata e soprattutto deve scontare la pena. Ecco, la parola, la cosa interessante è che si tratta di una parola relativamente recente, insomma ne abbiamo i primi esempi tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, e tra l'altro insomma la cosa è comprensibile perché non era l'Italia non era ancora uno Stato. Tra l'altro la parola, siccome ci è arrivata dalla lingua, all'origine è latina, ma ci è arrivata dal francese, era una parola condannata dai puristi che non volevano ammettere l'uso né della parola estradizione né del verbo estradare. E ancora ultima curiosità, la prima volta che questa parola è comparsa in un vocabolario è stata nel dizionario moderno di Alfredo Panzini nel 1923. Oggi è in tutti i vocabolari, ovviamente sappiamo che cos'è l'estradizione e in questo caso speriamo anche che venga, che possa essere davvero applicata. Grazie infinite Valeria Della Valle, perdonami, mi avevano dato 3 minuti in più che invece non ci sono. Bruno Contigiani, chiudiamo con un commento finale, mentre ringrazio Paolo Corleoni e Giorgio De Luca alle telefonate coscienti. Allora, abituatevi al cambiamento, non abbiate paura del cambiamento, pensateci, rallentate e soprattutto non cercate di cambiare il clima, perché il clima è così e mi sembra di capire che in questo periodo le stagioni a metà ci si era ancora. Allora Roberto Giordano, vi ricordo domani, se avete voglia di seguirmi a Storielle dalle 19:00-19:30 avrò Emanuele Filiberto di Savoia, intanto vi auguro sereni orizzonti.